guardare, capire, e vorresti sempre restare con me. Cosa succede dentro noi quando scaviamo nel buio e il fiume scorre freddo ormai, non senti già il suo richiamo e vorresti reagire, e vorresti luce scappare con me, e invece tu prendi il tempo come un gabbiano e a metà ti sospendi, poi vieni giù e ti fermi sopra uno scoglio e da lì guardi, aspetti, decidi tu se la pure il cavallo dove si va, il reame che vuoi, dimmi il sentiero, dai il colore del mio mantello qual è, una carrozza e sia, scegli pure il castello, quello l'avrai. Cosa succede prima e poi, quando l'amore è finito e tutto si prepara ormai con le sue frasi di rito, e vorresti sparire, e vorresti fuggire e scappare da me. Scappare da me, e invece tu stringi il tempo nelle tue tasche e non me lo dici, e invece tu sciogli il gelo nel tuo silenzio e stai lì, cosa aspetti? Decidi tu, un finale a sorpresa, un cannone ce l'hai, vuoi che lasci la scia? Qual è il trucco, lo sai, puoi colpirmi con un martello così, c'è una scatola, vuoi? Puoi segarmi o dal tuo cappello uscirò quando mi cercherai. Yeah.